numeri innanzitutto che anche oggi ci consentono parzialmente di tirare il fiato, perché è vero che ieri i morti sono stati 760, i positivi 2400 in più, che portano il totale a 83.000, ma è vero anche che la curva di crescita sembra confermare l'appiattimento, sarebbe il cosiddetto plateau, del quale molto abbiamo parlato ieri. Nemmeno il tempo di arrivarci, però, che scattano le polemiche tra la Regione Lombardia e il governo su aiuti e forniture, tra alcuni sindaci lombardi e la Regione sulla gestione e sui prossimi passi, mentre si apprende che uno degli imprenditori vincitori dell'appalto Consip per le mascherine è stato arrestato nel 2018 per erogazioni pubbliche ricevute da società inesistenti. Un'occhiata agli altri paesi, gli Stati Uniti, dove ieri ci sono state oltre 1.000 vittime, il presidente Trump annuncia 100.000 test al giorno, la Germania, dove i contagiati superano quelli della Cina e da dove si registra un apparente ammorbidimento, almeno popolare, sul tema dei fondi dall'Europa, e in Spagna, dove si contano oltre 10.000 morti. E questo è il 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare. "24 Mattino" di Simone Spezia. E come ogni mattina a quest'ora iniziamo con il nostro inno, il nostro Bob Marley, che ci dice che alla fine tutte le cose andranno bene. Un tentativo di farci coraggio in questi giorni complicati, in questi giorni di dolore. Non un modo per sminuire la fatica di tutte le persone che in questo momento lavorano sul fronte, a partire dal fronte sanitario, ovviamente, passando per il fronte territoriale, chi è sul territorio e lavora tutti i giorni, penso ai sindaci, agli amministratori locali, penso anche a tutti voi che siete in giro adesso e state contribuendo a tenere in piedi il paese. I trasportatori, chi lavora nei supermercati. E sì, poi ce lo scrivete ogni tanto, anche gli assicuratori bancari, che è gente che continua a lavorare, normalmente. Tutti quanti ci siamo dentro. Oh, gli agricoltori, ovvio. È un pezzo che abbiamo scelto appunto per darci coraggio. E se volete un dato che ci può dare coraggio, un elemento che ci può dare coraggio oggi, ebbene, dall'inizio dell'epidemia, ieri è stato il primo giorno nel quale all'ospedale di Lodi si sono liberati dei posti in terapia intensiva. E questo è quello a cui si voleva arrivare, con queste regole che... sulle quali stiamo faticando tutti oggettivamente. Arrivare ad un punto nel quale la sanità è in grado di reggere l'urto di tutto questo. E sì, certo, i commercialisti ce lo scrivete, quelli che sono... No, ma lo sappiamo, ragazzi, specie in questi giorni, col sito dell'INPS in queste condizioni, il lavoro che state facendo, l'attesa per le nuove norme. Per carità, l'industria farmaceutica, sì, ci siete tutti, ci siamo tutti, va bene. Siamo qua. Mi ci metto anch'io, forse impropriamente, a meno che non consideriate, insomma, l'informazione un servizio non essenziale. 349-238-6666 per gli sms, messaggi su WhatsApp, anche audio, le vostre voci, mi raccomando, le vostre voci che sono particolarmente importanti in questi giorni, anche per starci vicini, raccontateci un po' che cosa state facendo, come vanno le cose e cosa farete quando sarà finita, cosa fare, la prima cosa che farete quando sarà finita. Iniziamo non dalle voci politiche, ma da un dipendente di un supermercato, se non sbaglio, in Sicilia. Il video sta girando molto, che dice, il suo modo di dire, state a casa, ma che ci venite a fare la spesa? La dovete fare una volta a settimana, non venite a fare la spesa spendendo 6 euro. Io ho scontrini qua di persone che devono scendere a fare la spesa e invece c'ho un pacchi sacchetti, un pacchi soresini, insomma 6 euro chi sa spesa mi ha chiamato, 7 euro chi sa mi ha chiamato spesa, tenere qua per figliare un pacchino nel rio a se picchiare, perché poi non la posso fare, ci mettete i cartoni, ma siamo un partiano. Ed è l'uomo addetto a organizzare la fila fuori dal supermercato che si imbestialisce, che sta spesa ma chiamate. Allora un po' di questioni di polemica, perché insomma arrivati a questo punto ovviamente scattano, e scattano soprattutto in queste ore sul ruolo della Regione Lombardia, su come la Regione Lombardia ha gestito le cose, su quali sono le responsabilità dello Stato e quali della Regione. Uno scontro abbastanza netto, abbastanza forte, anche se poi tutti a un certo punto cercano di abbassare i toni, perché ovvio il momento è delicato. Però sentiamo il Presidente della Regione Fontana, va. Io, guardi, per carità, credo sicuramente a quello che dice il ministro Boccia, ma devo credere anche ai dati in mio possesso. Probabilmente inizieranno a fare tutto quanto possibile. Per ora noi prendiamo atto, ieri mi sembra che l'assessore Caparini abbia dato anche dei dati della situazione, per ora credo che abbia fatto molto, ma molto di più la Regione. Il ministro Boccia, quello agli affari regionali, replica: non ho tempo, ho voglia di polemiche, però... No, non ho davvero tempo né voglia di far polemiche. Fontana sa benissimo che mentre io e lei parliamo è atterrato da 10 minuti l'ennesimo aereo della Guardia di Finanza. Se ci fosse dall'alto una grande telecamera si vedrebbero in Italia in giro solo mezzi militari, e sono mezzi militari che arrivano nelle città, nei luoghi in cui ci sono ospedali, per scaricare materiali che lo Stato ha acquistato in giro per il mondo e continua ad acquistare in giro per il mondo per tutte le regioni e soprattutto per la Regione Lombardia, che è la regione che è in condizioni più critiche. Quindi niente polemiche, tutto quello che lo Stato fa è in rete. Poi iniziano ad arrivare i vostri messaggi, Due arancine al burro, la prima cosa che faccio quando c'è il liberi tutti. Un caffè al bar. Una passeggiata sul Monte San Martino, che è sopra casa nostra, ci dice Salvatore da Lecco. Ancora su questo fronte, il presidente siciliano Musumeci. Negare che ci sia un ritardo significa come negare che a mezzogiorno c'è luce e a mezzanotte c'è buio. Quindi lo riconoscono tutti e lo riconosce anche Borrelli. Ma non è il momento questo di polemizzare. L'unica vera verità è che si era detto sin dall'inizio che l'unità di crisi nazionale avrebbe provveduto a trasferire in periferia i dispositivi di protezione, quindi i camici e anche i ventilatori, perché noi possiamo creare nuovi posti di terapia intensiva e ci stiamo lavorando e siamo a due step, 10 aprile e 20 aprile. Però ci vogliono i ventilatori, come lei sa. Così dunque Musumeci, il tema è quello delle forniture, delle mascherine, anche oggi vedremo in rassegna stampa, ci sono degli elementi interessanti su questo fronte. E arriveremo anche allo scontro tra i sindaci e la Regione Lombardia, ne sentiremo uno, Gianluca Galimberti, il sindaco di Cremona. Intanto però salutiamo un altro primo cittadino, che è Alessio Pascucci, è il sindaco di Cervetere, il coordinatore del Movimento Italia in Comune, fondato da Federico Pizzarotti. Pascucci, buongiorno innanzitutto. Buongiorno a voi. E ieri ha elevato, nelle ore scorse ha elevato la sua protesta, perché dice questi soldi, avete presente, cari ascoltatori e cari ascoltatrici, ne abbiamo parlato, i 400 milioni di euro mandati dal governo per in aiuto e per supportare le persone in difficoltà contro il disagio sociale, così si è detto, alla luce anche del rischio di assalti ai supermercati che si era visto a Palermo, insomma. E Pascucci, lei ha detto sì, ok, ci hanno dato questi quattrini, ma non ci hanno spiegato come utilizzarli. Insomma, io adesso me li ritrovo in cassa e non ho istruzioni operative. Ognuno finisce che ogni sindaco farà un po' come gli pare. Sì, in realtà intanto buongiorno e grazie anche per la canzone di Bob Marley, perché questo è un momento in cui ci servono queste invece iniezioni di buona speranza. Io sono intanto molto grato al lavoro che sta facendo il governo, credo che il commissario straordinario Arcuri stia lavorando anche con una grande serietà e credo, diversamente da altri miei colleghi, che questi 400 milioni siano una manna dal cielo per i comuni, cosa che altri hanno polemizzato. Sono risorse che arrivano nei nostri bilanci e per molti di noi, compresa Cerveteri, la città dove faccio il sindaco, riusciamo a mettere nell'emergenza, diciamo, sociale una cifra più alta di quella che abbiamo mai messo nella nostra vita, quindi insomma non sono soldi di poco conto. Ho però fatto una polemica, in realtà neanche una polemica, ho sollevato una piccola protesta, perché non è la prima volta che noi sindaci, che siamo poi il front end dei cittadini, quelli che stanno proprio nella prima linea, dobbiamo apprendere le notizie dalle conferenze stampa, con magari i DPCM che escono due giorni dopo gettandoci in confusione, ma soprattutto c'è una grande libertà perché non vengono date delle istruzioni. Le faccio un esempio banale: noi siamo stati 48 ore chiusi in riunione con tutti i funzionari, per esempio per decidere quali fossero i beni di prima necessità. E per esempio nella mia città le medicine, il carburante, il riscaldamento per la casa li abbiamo considerati tali, altri comuni hanno stretto sul cibo, la quota da dare pro capite o le modalità con cui erogarla, stiamo facendo delle scelte diverse anche in comuni adiacenti. Il che significa che sarebbe stato sufficiente mandare delle linee guida. Io sono contento di avere autonomia, sia chiaro, da sempre dico che i sindaci dovrebbero avere più autonomia. Beh, ma infatti Pascucci, in realtà è giusto così, perché chi meglio di un sindaco, chi meglio dei servizi sociali di una città conosce, di una singola città conosce le esigenze dei cittadini, tutto sommato. Insomma, avere delle linee guida magari vi avrebbe limitato e vi avrebbe costretto a fare determinate scelte, mentre invece un sindaco nella sua autonomia può opportunamente decidere che, insomma, le scelte sono altre, le esigenze primarie sono altre, no? Però guardi, lei si immagini, noi abbiamo circa 8.000 comuni, un po' meno di 8.000 comuni, ci sono città come Roma, Milano strutturate, ci sono città come la mia di 40.000 abitanti dove fatichiamo, abbiamo pochissimi dipendenti e fatichiamo a dare i servizi essenziali perché abbiamo avuto dei tagli incredibili in questi anni. Si immagini i comuni ancora più piccoli, si immagini l'autonomia di un comune di 4.000, 5.000, 6.000 abitanti, 500 abitanti. Avere delle indicazioni che consentono di standardizzare l'aiuto che diamo in tutte le comunità non è male, però soprattutto, lo ripeto, la mia grande difficoltà è su come arrivano le notizie. Non è possibile che un giorno il Presidente del Consiglio dica una cosa, un altro ministero ne dica un'altra, cioè viviamo dei giorni in cui non c'è un rapporto istituzionale serio. Sì. Perché capisco che c'è l'emergenza, però nell'emergenza si deve proprio fare in maniera che quelli che stanno sul fronte, noi siamo quelli sul fronte, ricevano dai generali notizie chiare, altrimenti il fronte si sfalda. È un punto, Pascucci, sì, capisco quello che dice lei, insomma, quando hai un piccolo comune, no, con magari 4-5 mila abitanti, dove tutti si conoscono, se il sindaco decide più o meno autonomamente a chi indirizzare i soldi, il rischio è di creare disparità e anche invidie e gelosie, cioè ricordiamoci che è una piccola comunità, un posto di 5 mila abitanti, dove tutti si conoscono, dove il sindaco dà del tu a tutti, presumibilmente, no, un po' il concetto è questo, mi sembra di capire. Sì, no, in realtà io ho una così grande fiducia e stima del ruolo dei sindaci e degli amministratori locali che non temo la discrezionalità in loco, cioè non temo che ci siano dei favoritismi, non temo questo. Dico che però non c'è standardizzazione e quindi in comunità adiacenti, in comuni vicini, cioè non tutti riescono a trovare delle soluzioni analoghe e questo può creare invece delle disparità sul livello nazionale. Quindi avere delle linee guida o comunque avere un consulto con il governo governo che dia delle indicazioni o che comunque tenga i sindaci in considerazione. Noi siamo al servizio dello Stato. Guardi, in questo momento è uscito molto il ruolo dei sindaci, ma il ruolo dei sindaci è sempre questo, eh? Cioè i cittadini non parlano con i deputati, con i senatori o con i consiglieri regionali, parlano con voi, certo. Quindi oggi è emerso che noi siamo quelli di prima linea, siamo quelli di prima linea sempre, ma sempre però veniamo lasciati soli. O i tagli vengono fatti sugli enti locali, o si abbatte sull'ente locale il problema della decisione nazionale, e spesso, quindi in questo momento dovremmo essere appunto quelli che vengono avvertiti per primi. E io ogni volta che viene fatta una conferenza stampa serale tremo, perché so che nelle 48 ore successive, nelle 36 ore successive, prima dell'uscita del DPCM, nella mia città e nelle altre città ci sarà il caos che dovremmo fronteggiare da soli. Le faccio l'ultimo esempio. Sì, io ho dovuto scrivere, ho scritto all'inizio, a metà marzo, al Presidente del Consiglio dei Ministri, e devo dire che la lettera ha anche sortito effetti, perché io fino al 21 marzo non ho avuto dall'azienda sanitaria l'elenco delle persone contagiate o in quarantena nella mia città, io che sono l'autorità di sanitaria locale, e mi veniva chiesto nel contempo dal governo di gestire i rifiuti in maniera speciale per quei cittadini. Cioè a me veniva dato un'indicazione che non potevo assolvere perché quei rifiuti, perché nessuno mi diceva chi fossero o dove abitassero. Ecco, queste cose non possono funzionare. Non è possibile che il contagio è contenuto nelle nostre zone solo per controlli telefonici fatti dai dipendenti dell'ASL, che stanno facendo un lavoro encomiabile a cui io voglio fare una statua. Ci deve essere un altro tipo di coordinamento. Le forze dell'ordine devono andare ogni tanto a verificare se in quell'abitazione la persona contagiata è uscita o meno, altrimenti non lo conteniamo. Quindi chiediamo di essere messi nelle condizioni di fare quello che la Costituzione ci dà come incarico, come da incarico, sindaci, se no non possiamo farlo. La ringrazio, grazie Alessio Pascucci, sindaco di Cerveteri, per essere stato con noi, coordinatore del Movimento Italia in Comune. Andiamo al traffico, va. Mattino. Tra le vostre, la migliore che è arrivata, tra tutti quelli mi vado a fare un giro in bicicletta, in mountain bike, vado dal barbiere e scappo di casa. la doppia mossa, dopo. Non ne posso talmente più di star chiuso là dentro. Allora, come si diceva, c'è un po' di tensione, di scontro intorno al come si è mossa la regione Lombardia e come si è mosso lo Stato, con accuse che partono dal basso e vanno sempre più in alto. Alcuni sindaci, prevalentemente vicini al centro-sinistra, anzi vicini al centro-sinistra, lombardi, hanno inviato un documento con una serie di domande alla regione. La regione per contro ha attaccato il governo dicendo che non fa abbastanza, quindi come vedete un po' di polemica politica che torna a montare, non abbiamo fatto in tempo a raggiungere il plateau che ci si torna. E una delle questioni ruota intorno ai cosiddetti test sierologici. Che cosa sono i test sierologici? Sono questi test che consentirebbero di capire se una persona ha gli anticorpi da Covid-19, molto più rapidi ed economici, sono più rapidi dei tamponi, in sostanza, per farla molto semplice, anche se ti danno una conferma indiretta della presenza o meno del virus. È una delle domande che stanno ponendo questi sindaci alla regione Lombardia, visto che Toscana, Emilia Romagna e Veneto stanno partendo con questi test per dare una sorta di patente di immunità. Siamo in linea con uno di questi primi cittadini, che è Gianluca Galimberti, il sindaco di Cremona. Galimberti, buongiorno. Tra l'altro reduce da Covid-19, se non vado errato. Sì, sono ancora in quarantena e buongiorno a tutti, buongiorno a lei. Come è stata? È stata dura, Galimberti? Io sono stato fortunato, penso, tranne i primi giorni di febbre alta, poi fondamentalmente l'ho avuto in forma non forte. Okay, sono stato fortunato rispetto a molti altri. E anche a molti suoi concittadini, insomma, siamo in uno dei cuori di questa epidemia. Ascolti, percentualmente direi che è la provincia con la percentuale più alta, purtroppo. Senta, Galimberti, che cosa non va, secondo lei, di come la Lombardia ha gestito questa epidemia? Sì, noi abbiamo fatto presente alcune cose. Il nostro non era uno spirito polemico, ma non è, non lo è ancora, siamo convinti che poi alla fine il presidente Fontana capirà e anche la regione, ma abbiamo fatto presente alcune cose che secondo noi non hanno funzionato, ma con questa finalità, capire come fare nel prossimo mese, perché noi abbiamo ancora davanti a noi un percorso che sarà anche lungo, in cui dovremo convivere col virus, non siamo ancora per nulla usciti dall'emergenza e vogliamo evitare ogni rischio di poterci rientrare. Quello che lei ha detto della parte diciamo sierologica, in parte è già stato risposto, sicuramente alcune regioni stanno muovendo, vogliamo che ci sia anche in questa una programmazione. Ma ci sono altri temi che sono temi centrali, sono i temi legati per esempio all'RSA da una parte e alla strategia sulle case di riposo e contemporaneamente alla strategia sui tamponi. Rispetto a quest'ultima, secondo noi sono stati, sia rispetto all'RSA che ai tamponi, sono stati commessi degli errori di contenimento e di monitoraggio, di contenimento del virus e di monitoraggio anche nelle settimane scorse, li abbiamo detti, spiegati, ma le risposte non erano arrivate e questi errori non devono più essere commessi, perché se noi vogliamo ritornare a una sorta di normalità e vogliamo evitare che accada ancora l'esplosione del virus, non dobbiamo più commettere quegli errori. Per esempio sulle residenze per anziani, che cosa bisognerebbe fare secondo lei? Ma guardi, quello che è accaduto sulle residenze per anziani, e come davvero si sa, le risposte non sono arrivate. Io le faccio un esempio: una delle residenze per anziani ha rivolto a Regione attraverso la TS delle domande il 3 di marzo, abbiamo la lettera scritta, ma non è stato soltanto questo, anche nei dialoghi diretti con la Regione, nelle call numerose che abbiamo fatto, ma a quelle domande non sono state date risposte. Mi spiego, in moltissime RSA ci sono stati dei casi sintomatici ai sì. quali non è stato fatto il tampone. Sì. Guardi Galimberti, qua l'abbiamo raccontato, abbiamo preso tra l'altro dei casi proprio dalla Lombardia. C'è il caso lampante, quello di Mediglia, no? Con le oltre 60 vittime in una casa di riposo, sì. con 150 persone. Sì. Certo, un'altra casa di riposo in cui un operatore sanitario poi un'operatrice sanitaria poi deceduta è sicuramente entrata in contatto con diversi pazienti che erano a loro volta sintomatici, ma il tampone non è stato fatto, e a questo aggiungiamo che le protezioni individuali non sono state distribuite. Guarda, le assicuro che noi abbiamo fatto di tutto per recuperarle, ma l'abbiamo fatto personalmente. L'RSA per esempio, che è qui nel comune di Cremona, l'ha fatto trovando i canali e noi li abbiamo aiutati, e anche come comune, ma non è avvenuta nessun'altra distribuzione. Se poi questo sia colpa di regione e anche di protezione civile, questo non è poi importante. Noi abbiamo rivolto alla regione, perché è la regione che gestisce la sanità in Lombardia. Sì, ed è poi il vostro diretto referente. La ringrazio. Gianluca Galimberti, avremo modo nei prossimi giorni sicuramente di avere anche una risposta dalla stessa regione Lombardia. Sulla questione dei test sierologici, però, c'è da notare per esempio quello che dice il consulente del ministro Speranza, Walter Ricciardi, il quale sostiene, grazie appunto a Gianluca Galimberti, sindaco di Cremona, buona fine di quarantena, sui test sierologici dice al momento non sono ancora affidabili. Sentiamolo, va. Ci sarà sicuramente un momento in cui le prove ci diranno che questi sono affidabili, e solo da quel momento in poi noi dal punto centrale ci sentiremo, come si dice, in scienza e coscienza di dire fateli pure. In questo momento c'è anche una guerra commerciale, ci sono questi produttori che vendono questi kit come se fosse il salvavita, la risoluzione completa a tutti questi problemi, e in numerose parti del mondo hanno fatto dei bagni di sangue sia dal punto di vista economico ma soprattutto dal punto di vista pratico. La Germania ne ha visto in una Nord Rhein-Westfalia che addirittura il test che aveva utilizzato dava il 70% di inaffidabilità. Era uno dei primi per cui l'inaffidabilità era così forte, gli altri magari un po' meno, ma ancora non siamo certi di poter raccomandare in scienza e coscienza un test rapido, sierologico, che sia affidabile al 100%. Intanto però succede in alcuni luoghi, oltre al Veneto, la Toscana, l'abbiamo detto, l'Emilia Romagna, succede in alcuni luoghi come a Robbio, provincia di Pavia, che il sindaco fa fare il test a tutto il paese. Sentiamo, va, se ce l'abbiamo, Carmelo, vai. Sono stufo di vedere morire le persone nelle proprie case, a Robbio ci sono già stati troppi morti, troppe morti sospette, abbiamo aziende intere che stanno facendo fare presso le loro aziende il test sierologico ai dipendenti, abbiamo le case di riposo che l'hanno fatto fare a tutti gli ospiti e abbiamo anche tante forze dell'ordine, medici, infermieri che vengono qui e ci ringraziano perché almeno noi diamo questa opportunità. È così, si procede in ordine sparso, sia dal punto di vista territoriale dei singoli comuni, sia ovviamente delle regioni. Forse a un certo punto un coordinamento generale ci vorrà. Oh, se per questo fine settimana e se per i prossimi giorni avete bisogno di una lettura un po' più distesa, arriva il nuovo numero di Il Mensile del Sole 24 Ore, che parte con un restyling, tra l'altro, cara Nicoletta Polla Mattiot, che è la direttrice, la responsabile, buongiorno. Tra l'altro un discreto gesto di coraggio, tentare un restyling, per così dire, in una fase così delicata. Ascolta, si parla anche, ovviamente il numero è un mensile, viene chiuso con un po' un discreto anticipo, però insomma si parla anche di un po' di quello che stiamo vivendo in questa fase. Assolutamente sì, come puoi immaginare ci siamo posti il tema non se o non fare questo restyling, perché io sono convinta che ciascuno deve fare la sua parte, per piccola che sia, tanto più in questo momento, però è certo un momento in cui tutti noi siamo più attaccati a quella che è l'attualità stringente, ahimè drammatica, no? Neanche del giorno per giorno, ma proprio dell'ora per ora. Però credo che tanto più in questo momento ci sia anche bisogno di intanto di chiavi di lettura di questa realtà così, così difficile che stiamo affrontando, e poi anche di qualche finestra di immaginazione, no? Di sì. Qualche apertura anche di sguardo sull'altrove, persino, dico, forse dopo tutta questa serie di notizie brutte che inevitabilmente tu stesso stai dando, no? Ogni tanto anche nutrirsi di altro, no? Di bellezza serve, perché comunque una delle grosse difficoltà, oltre all'emergenza che abbiamo in questo momento, è anche passare questo tempo, farlo passare, no? Sì. E che è un'attività che stranamente richiede molto ottimismo e molto impegno, anche solo quello. Tutto ciò per dire che ovviamente sul nuovo IL c'è spazio all'approfondimento anche delle conseguenze severe che questa crisi, che è una crisi prima di tutto sanitaria, poi economica, sta dando, e quindi soprattutto facciamo un focus su alcune situazioni di mercato particolarmente urgenti e con alcuni approfondimenti su tutto il mondo, per esempio, del vino italiano, sul mercato dell'auto, insomma un focus su alcune tematiche che sicuramente riguardano da vicino le nostre aziende, la nostra realtà. Alla maniera di Hill, mi viene da dire, abbiamo coinvolto diversi scrittori che ci diano appunto chiavi di lettura, che sono anche chiavi narrative che in questo momento aiutano per appunto leggere la realtà. Uno di questi, per esempio, è Gianni Biondillo, che fotografa forse una delle cose con cui ci stiamo confrontando tutti, che è questo schiacciamento sul presente, no? Questa incapacità, impossibilità di fare un programma, ma non dico a lungo termine, ma fare un programma anche solo per domani. Esatto. Allora, grazie Nicoletta Polla Mattiotta, direttrice di Il, responsabile di Il, e invece proprio al domani vogliamo guardare e chiudiamo. GR24, ci sentiamo subito dopo con la rassegna stampa.